9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon giovedì 29 di settembre. Oggi si festeggiano gli arcangeli, per chi avesse nome di questo tipo. Ma il tema di oggi è un altro classico esempio di come l'Italia non riesca col suo processo decisionale politico a capire che bisogna risalire la china della credibilità, non scenderla. Tentare di dare un'impressione, quando da settimane i nostri titoli del debito pubblico si reggono sui mercati e si reggono purtroppo a una quota di spread che resta intollerabilmente alta se fosse incorporata nel medio periodo, perché significherebbe mutui e prestiti più cari e più rari per tutti noi. Eppure si regge a quella quota solo grazie agli acquisti della BCE, che in tutto questo decidiamo, dopo 3 mesi dalla nomina di Mario Draghi alla guida della BCE, di non riuscire ad avere un candidato per la successione di Mario Draghi alla Banca d'Italia. Tra poche settimane Mario Draghi lascia l'incarico in Banca d'Italia, e che ci riduciamo a ogni consiglio superiore della Banca d'Italia, ieri era prevista la riunione, a contrapporre il candidato del Ministro dell'Economia al candidato interno della Banca d'Italia. Il candidato del Ministro dell'Economia e il Direttore Generale del Tesoro, il professor Grilli, e il candidato interno della Banca d'Italia e il Direttore Generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni, e puntualmente nel governo il Premier e il Ministro non riescono a uscire da questo impasse, e puntualmente il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non riesce quindi ad avere un nome dal governo come prevedono le procedure per nominare il successore, tutto questo è una bella prova di irresponsabilità generale. E in questo io non do giudizi sui due candidati contrapposti. Sui giornali trovate diffusamente spiegate le ragioni per cui Tremonti ritiene che il professor Grilli sia l'uomo più giusto dopo Mario Draghi. Abbiamo avuto per anni sotto gli occhi le occasioni in cui i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia non sono stati buoni, non si sono condivise le ricette sulla crisi. Vi ricordate quando il Ministro dell'Economia disse che costava aspirine le risposte date dal Financial Stability Board guidato da governatore della Banca d'Italia Draghi, che in quell'occasione ha fatto vedere di quale autorevole credito fosse garantito agli occhi degli statisti di tutto il mondo che gli attribuirono quell'incarico. Si può dire, per effetto di quello che abbiamo visto, che in realtà è arrivato alla guida della BCE Mario Draghi quasi malgrado il governo italiano, o comunque malgrado il sostegno del non proprio esplicito, non proprio dichiarato, non proprio caldo del Ministero dell'Economia. E ora la questione è che mentre la BCE ci sostiene, noi abbiamo un contrasto evidente. Il candidato interno alla Banca d'Italia è diventato col tempo una specie di baluardo dell'autonomia dell'istituto da improprie influenze politiche, perché è evidente che il professor Grilli, che pure ha un curriculum di strepitoso rilievo tra la formazione negli Stati Uniti, gli incarichi svolti lì, i lunghissimi anni al Tesoro, all'inizio proprio nella squadra di Draghi, direttore generale del Tesoro, poi una parentesi sul mercato, il Credit Suisse, e poi dal 2002 tornato al Ministero, quindi un curriculum impeccabile, e in sede europea, stante la perdita di credibilità della Presidenza del Consiglio, il vero regista in tutti questi anni delle trattative, degli accordi, presiede il comitato economico a Bruxelles, quindi è una posizione tra quelle di massimo rilievo che noi abbiamo nel quadro comunitario, e in sede di Eurogruppo e di Ecofin è lui che tiene le fila di tutto. Eppure il professor Grilli è finito per passare oramai come il candidato che è l'ombra lunga, la mano politica del ministro Tremonti sul sistema bancario e sulla Banca d'Italia. Credo che per chi lo conosce e per chi conosce il suo curriculum non è una cosa di generosità nei suoi confronti, ma questa è la storia della contrapposizione interna a questo governo e della politica italiana. Dall'altra parte Fabrizio Saccomanni, direttore generale, che da moltissimi anni è sempre stato praticamente anche lui con formazione poi americana in Banca d'Italia, che ha 69 anni, ma è finito per diventare il candidato che è la difesa, la trincea della difesa dell'autonomia delle istituzioni nei confronti della politica. I giornali parlano anche di un terzo candidato. Ricordo tutti che il procedimento per la nomina è istituito con la legge che ha riformato la Banca d'Italia dopo gli scandali del 2005 e Fazio saltato, il governatore Antonio Fazio saltato per il sostegno alle scalate del 2005, prevede che sia la Presidenza del Consiglio a fare un nome, a indicare un nome sentito Consiglio dei Ministri al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, che sono 13 membri, guidato dal governatore. Il Consiglio della Banca d'Italia si esprime su questo nome, il suo sì e il suo no è necessario per un iter perfetto della nomina, ma non è decisivo il suo sì e il suo no. Dopodiché a quel punto si procede alla nomina con naturalmente promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Quindi è un processo dall'iter complesso in cui il governo parte con la designazione, il Consiglio Superiore valuta e può dire sì o no, e difficilmente il Presidente della Repubblica, a maggior ragione dopo anni di braccio di ferro, potrebbe far passare un nome che non avesse il sì della Banca d'Italia. Anche per questo, dicono alcuni giornali, i candidati potrebbero essere diversi da questi due contrapposti. La Banca d'Italia fa chiaramente filtrare l'idea che un candidato diverso potrebbe essere solo a patto che abbia esperienza di banca centrale, e anzi che è il membro italiano nel board di Francoforte, Lorenzo Binismaghi. C'è chi parla di Domenico Siniscalco, l'ex direttore generale del Tesoro, che è stato successore per un anno e mezzo di Giulio Tremonti nel 2005. Che oggi ha incarichi di mercato. Vedremo, ma il punto è la gravità dell'immagine che l'Italia dà rispetto ai partner. Oggi il fondo del Corriere della Sera e del professor Francesco Giavazzi, che si rivolge personalmente al professor Grilli dicendo: dai una cosa di dignità, non candidarti. Io nel merito posso condividerlo, ritengo che questo moralismo nel mettere tutto sulle spalle poi del professor Grilli sia anche un po' improprio, per così dire. Qui la questione è politica, non è tanto Grilli che decide o non decide questo braccio di ferro, che testimonia la totale incomprensione oramai tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia. Anche questo è uno dei punti deboli da sempre, vi è più da due mesi a questa parte, dell'Italia. Infine, Umberto Bossi ieri ha dato la sua sulla candidatura dicendo: viva Grilli, perché è nato a Milano. Quindi questo è l'argomento che viene considerato decisivo da parte dei leghisti. Vediamo cosa ne pensano dei nostri ospiti di questa vicenda, che assume i toni purtroppo anche un po' della sceneggiata, e mi dispiace. Abbiamo con noi Giulio Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano e alla cui trasparente rudezza facciamo appello per fare capire ai nostri ascoltatori. Buongiorno professor Sapelli. Buongiorno dottor Lodini. Emiliano Brancaccio, che insegna economia politica all'Università del Sannio e che io chiamo spesso perché apprezzo moltissimo il taglio anche da parte sua dichiarato delle sue analisi di come insegna e di come commenta la vita italiana. Buongiorno professor Brancaccio. Buongiorno a lei e a tutti voi. Allora professor Sapelli, che dice di questa contrapposizione? Lei come la pensa? Come arriviamo a una scelta? Cosa sono i due candidati secondo lei? Cos'è tutta questa... E in definitiva poi, ma bisogna avere davvero dei banchieri centrali poi tutta questa prosopopaica attenzione? Guardi, lei ha già detto tutto, ha già spiegato tutto agli ascoltatori, ha fatto un'analisi molto obiettiva. Io dico soltanto una semplice cosa: le istituzioni dell'economia, quando esistono, bisogna rispettarle e fare in modo che si riproducano. L'Italia è naturalmente un paese a basso grado di istituzionalizzazione dell'economia. Cosa tipo intendo per istituzionalizzazione dell'economia? Che allorché il mercato in alcuni segmenti di questa economia tace, si creano delle istituzioni come le banche centrali, come gli organismi di controllo, noi abbiamo la Consob, abbiamo la Borsa, eccetera. Queste istituzioni hanno delle regole interne di funzionamento e guai se queste regole interne non vengono fatte funzionare. Allora, ci sono già stati dei vulnus all'indipendenza della Banca d'Italia. Sappiamo molto bene quando Ciampi divenne primo ministro, l'allora presidente Scalfaro, noto per il non suo particolare rispetto per le istituzioni in generale, impose la nomina di un candidato che non era quello destinato dal cursus honorum che si... era dal tempo di Meneduce, ancora prima di Bonaldo Stringer, che era stato l'ideatore della Banca d'Italia, e di Meneduce, il primo grande banchiere centrale, era quello che chi era direttore generale era destinato a succedere al governatore. Questo fu il primo vulnus, adesso non se ne deve fare un altro. C'è un direttore generale, che è Fabrizio Saccomanni, le istituzioni sono cose preziose, non devono essere scambiate col mercato della politica. è già molto complicato far funzionare il mercato dell'economia. Ecco, se poi la politica diventa mercato, come mi sembra in questo frangente, lei l'ha ben descritto, un mercato tra gruppi contrapposti, tra gruppi di caciti, cioè di gestori del consenso in un insieme particolaristico e molecolare dove tutti sono contro tutti, bisogna fare un passo indietro e fare in modo che le istituzioni ritrovino stabilità, continuità. Lei ha detto molto bene, l'Italia ha già avuto delle crisi di legittimazione a livello internazionale, non nascono solo dal governo Berlusconi, per carità, risalgono a molto prima, e almeno dalla metà degli anni 90 che soffriamo di questa malattia. Adesso abbiamo un'occasione straordinaria, abbiamo il banchiere centrale che viene nominato alla BCE, emerge dal mercato e dalle istituzioni, è stato lungo direttore generale del Tesoro, ha ben fatto alla banca centrale in questi momenti turbinosi. Io dico molto francamente, squadra che vince non si cambia. Fabrizio Saccomanni, secondo le regole interne non scritte ma sacrosante che hanno sempre funzionato, penso ai grandi banchieri centrali che l'Italia ha avuto, in primo luogo Menichella, Baffi eccetera, io penso anche Guido Carli, grande maestro, penso che loro si sarebbero comportati come lei ha ricordato prima, anche se lei ha fatto un esame molto distaccato, ecco. Ha ragione, bisogna ragionare al di là delle persone, al di là del giudizio che diamo delle persone. Banca Italia è ancora una riserva della Repubblica, per carità, io ho molte cose con cui non sono d'accordo con Banca Italia, ecco, in primo luogo diciamo la visione che ha della vigilanza e la visione che ha della proprietà delle banche, per cui Banca Italia vorrebbe che tutte le banche fossero SPA e non ha nessuna comprensione di quelle che sono le banche cooperative, le banche popolari, ma lascio perdere, queste cose sono secondarie, la cosa principale che noi dobbiamo dimostrare agli italiani in primo luogo e all'Europa e al mondo è che rispettiamo le istituzioni dell'economia. Fabrizio Saccomanni deve fare il governatore della Banca d'Italia, punto, basta. Ecco, io quando intendevo con la mia ultima domanda che ho rivolto a Sapelli, quando gli ho chiesto ma bisogna avere poi tutto questo prosopopaico rispetto, perché cioè, intendevo proprio l'ultimo punto che ha toccato, il fatto che la politica non ci metta mai in condizione di avere procedure limpide, trasparenti, chiare, di serietà nella scelta dell'istituzionalizzazione, della difesa dell'istituzione dell'economia italiana, ci impedisce poi di parlare serenamente e seriamente nel merito di quello che questi fanno, perché purtroppo l'atteggiamento, il riflesso condizionato che deve scattare è quello sempre di difendere un minimo di serietà nelle regole che non vengono rispettate dalla politica, e questo ti tappa la bocca perché ti impedisce poi di parlare nel merito. Perché anch'io, per esempio, sulla vigilanza ultimo periodo, chiamiamola vigilanza Tarantola, dal nome del dirigente della Banca d'Italia, la signora Tarantola, che ne è alla testa, beh, io ho, diciamo, ma non perplessità che dipendono da vicende di violazioni, di cose, però ho parecchie volte accumulato, vedendo le carte nella vita interna delle banche, delle domande che mi piacerebbe fare. L'esempio che faccio è che negli Stati Uniti, dove le regole sono molto chiare, il modello è molto diverso, su ciò che la Fed fa o non fa in questi anni, ma è sempre stato così, e del resto è così anche per la Corte Suprema, per esempio, c'è un fior di dibattito politico in cui si può e anzi si deve, visto che c'è la trasparenza interna anche di chi decide che cosa e di chi vota che cosa nei comitati della Fed, perché è pubblico, allora si può fare un bel dibattito pubblico ogni volta tra la comunità degli accademici, degli economisti, dei commentatori di giornale. Da noi purtroppo vicende come queste ogni volta, e se ci fate caso dai tempi di Buffett in avanti, la Banca d'Italia è sempre stato un problema, ha finito sempre per essere un problema, perché o troppo indipendente o perché la politica ci vuole mettere questo o ci vuole mettere quello. Alla fine siamo ridotti da decenni a dover difendere l'autonomia della Banca d'Italia e non poterci mai pronunciare nel merito, perché a seconda di quello che dici sei amico di Tizio o sei amico di Caio. Ma che cavolo di paese è un paese così? Però, professor Brancaccio, lei invece come la pensa dei candidati, della storia alle spalle, e come pensa che ne usciremo, e insomma, glielo dico fuori dai denti, io ho un grande stima per Saccomanni, Probabilmente tenterei di articolare un dibattito su che tipo di candidato ideale abbiamo bisogno alla testa di Banca Italia, perché quello che ha detto Sapelli ha un grande rilievo sulla continuità istituzionale, però è stata violata tante di quelle volte oramai che mi piacerebbe un dibattito di merito. Certo, se devo accettare l'idea che il titolo per candidarsi e per avere anzi il sostegno preminente è di essere nato in un luogo o in un altro, non lo so, mi fa un po' ridere. Professor Brancaccio, come la pensa? Sì, ma infatti, diciamo, al di là delle considerazioni del professor Sapelli sulla continuità istituzionale, che sono rispettabilissime ovviamente e hanno le loro motivazioni, tuttavia io, appunto, come lei faceva notare, io porrei un problema di trasparenza politica. Mi spiego, la nomina del governatore di Banca Italia è importante non solo per le questioni di vigilanza di cui lei tra l'altro e tra gli altri si è occupato, ma anche perché, lo sappiamo bene, i governatori delle banche centrali nazionali, per esempio, entrano di diritto nel consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Adesso, tanto per fare un esempio, noi sappiamo che nell'attuale fase di crisi, nella quale, ricordiamolo, si sta giocando la sopravvivenza della zona euro, quello che succederà nel consiglio direttivo della BCE sarà decisivo. Perché teniamo presente che il ruolo del cosiddetto fondo salva stati è ancora estremamente incerto e contraddittorio. E questo significa che nel momento cruciale, cioè se eventualmente dovesse scattare la famigerata ora X sui mercati finanziari, cioè se partirà davvero la famigerata ondata di vendite di titoli dei paesi periferici, quella ondata in grado di far esplodere i differenziali sui tassi di interesse e quindi di mettere in ginocchio la zona euro, ebbene a quel punto tutto dipenderà dalle decisioni di quegli uomini che si sono insediati nel consiglio direttivo di Banca Centrale Europea, perché quelli dovranno decidere se autorizzare oppure no quegli acquisti in massa che saranno necessari per impedire l'esplosione dei tassi di interesse, quindi in sostanza per ammaestrare il mercato, se mi concede una espressione tendenziosa e letteraria, per dominare la bestia del mercato. No, perché teniamo presente che la BCE, se vuole, ha mezzi potenzialmente illimitati per governare il mercato, cioè per dare il tempo alla politica, se la politica lo vuole, di costituire quel famigerato bilancio europeo vero e quei meccanismi di riequilibrio tra i conti esteri dei paesi membri che consentirebbero di salvare la zona euro, se no la zona euro non si salva. Quindi, detto questo, il problema politico che io credo si porrà in seno al consiglio direttivo è un problema cruciale ed è anche, io mi permetto di osservare, un problema di trasparenza politica, un problema, oserei dire, di ordine democratico. Perché? Perché noi stiamo assistendo a questo balletto di nomine di persone senz'altro competenti e stimate, questo è fuori discussione, ma francamente non è chiarissimo che cosa queste persone competenti e stimate esattamente decideranno di fare, per esempio in quel momento decisivo. A me risulta che Tremonti abbia addirittura definito la nomina del suo candidato, cioè di Vittorio Grilli, come niente meno che un argine alla tecnocrazia europea. Ma questo che cosa significa? Significa che Grilli in consiglio direttivo potrebbe addirittura assumere una posizione non del tutto allineata a quella del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Ecco, secondo me queste sono questioni importanti, ma che sono difficili da sapere, non solo perché la stampa, con la fortunata e positiva eccezione di trasmissione come questa, ma in generale la stampa si, come dire, dedica molto al gossip pruriginoso, invece su queste questioni qui poco interviene, ma anche perché, diciamo, noi sappiamo che, a differenza, come lei osservava, di quel che avviene negli Stati Uniti, qui da noi i verbali, per esempio, della Banca Centrale Europea sono secretati, quindi noi riusciamo solo ad inferire quel che poi si decide in consiglio direttivo. Ma queste sono questioni importanti, anche perché, speriamo veramente di no, ma se davvero la zona euro dovesse deflagrare, noi dovremo attribuire delle responsabilità politiche. Io sono molto molto molto d'accordo con questo criterio della trasparenza. La politica dovrebbe capire che per fare passi più avanti, la trasparenza, che significa regole istituzionali, in questo caso non stiamo parlando di mani pulite, le mani sul tavolo, stiamo parlando di consentire a tutti di capire chi pensa come e chi vota come all'interno della BCE, però per fare questo deve avere dei criteri rigorosi nella scelta di chi è la guida delle istituzioni. Questo è ciò che la politica non capisce. Sapelli, flash, perché poi ci deve sì, lasciare. Devo andare a protezione e non faccio il quarto d'ora accademico. No, esattamente. Semplicemente sono contrario a questa andata. Da no, quello che ha capito lei, come la pensano sti candidati italiani sulla cosa che dice Brancaccio? Sono a favore della BCE oppure? Io ho l'impressione che quello che pensa Tremonti è un conto, quello che pensa il professor Grilli è un'altra cosa. Cioè, voglio dire, basta leggere insomma il vecchio principe, il principe di Machiavelli, spesso chi serve il principe non è detto che la pensa come il principe, e soprattutto le istituzioni educano coloro che ivi si recano e ivi assumono dei posti di responsabilità. Voglio dire, abbiamo visto delle ragazzine che avevano in testa la Vandea, che si sono sedute a presidenti della Camera e hanno fatto bene le presidenti della Camera, e come riferisco alla presidente Pivetti, che ha fatto, nessuno avrebbe mai pensato. Quindi questa posizione, ecco. Poi devo dire la verità, e io su questo non la penso assolutamente come il carissimo e stimatissimo, chiarissimo Brancaccio. Collega, ecco, un vantaggio, io sono un fervido fautore della tecnocrazia, credo che il nemico vero della stabilità dei mercati è la democrazia, io sono per aumentare il grado di tecnocrazia e fare in modo che la democrazia faccia dei passi indietro, perché purtroppo la politica, questa politica, è frutto di una democrazia debole come quella dei paesi dell'Europa del Sud, ecco, insomma non siamo nei paesi a common law eccetera, quindi ormai bisogna fare i conti con questo grosso problema. La democrazia parlamentare non è più idonea a governare sistemi così complessi e soprattutto sistemi che richiedono ampi spazi di essere sottratti al consenso popolare per fare in modo che le istituzioni funzionino. Quindi più tecnocrati ci sono, più io appunto levo i calici, quindi quando vedo che c'è invece uno come Barroso che fa il presidente della Commissione europea, ecco, mi viene la pedoca e ho veramente paura. Quindi viva la democrazia, abbasso la democrazia. Va bene, naturalmente il professor Sapelli, essendo ruvido e tagliente, paradossalizza, non è che dice che il suffragio universale è incompatibile con il governo delle società complesse. Non c'è nessun dubbio, diciamo, bisogna far vattare la gente sulle cose meno importanti, esatto. Ma le cose più importanti devono essere in mano agli ottimati, bisogna vedere come si selezionano questi ottimati, quindi per carità, via la politica delle banche centrali. Va bene, io ringrazio il professor Sapelli. Eccoci tornati qua in studio, il braccio di ferro per la successione a Mario Draghi alla guida della Banca d'Italia, dopo che Mario Draghi è diventato, non certo presidente del governo italiano, presidente della BCE. Tra poche settimane in Banca d'Italia non c'è più il governatore, il governo non riesce a uscire dalla contrapposizione, candidato di Tremonti il professor Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, candidato interno a salvaguardia della tradizione dell'autonomia e indipendenza dell'istituto, direttore generale Fabrizio Saccomanni. Ieri Draghi ha incontrato anche Berlusconi, perché in questi mesi, da quando la BCE ci ha mandato la lettera a metà agosto per chiedere una nuova manovra dicendo le condizioni per il sostegno della BCE ai titoli italiani, Berlusconi ha riaperto un canale diretto personale con Draghi che Tremonti non ha, e anche ieri un incontro tra il Presidente del Consiglio e il governatore attuale, e Repubblica con l'articolo di Francesco Bea e Leona Pulidori a essere più esplicito sui contenuti di questo incontro. E sostengono i colleghi che nell'incontro Berlusconi avrebbe detto: io in realtà non ho promesso Saccomanni, ma se faccio l'indicazione al Consiglio Superiore della Banca d'Italia di Saccomanni, Tremonti fa cadere il governo e quindi bisognerà trovare un'altra soluzione. Abbiamo tentato di spiegarvi che probabilmente questa contrapposizione va al di là dei meriti indiscussi e del curriculum del professor Grilli, e dei meriti naturalmente di Saccomanni. Questa maniera di impostare la questione ci impedisce poi di parlare seriamente di che cosa fa o non fa il governatore italiano e come la pensano i candidati su quello che dovrebbe avvenire in un quadro dove decisioni terribili si apprestano rispetto all'insufficienza dei trattati europei attuali e a quello che BCE e strumenti straordinari di sostegno ai membri dell'euroarea dovrebbero fare. Tutto questo resta sullo sfondo di fronte a una vicenda che come sempre ha connotati di instabilità e indecisione e di visione politica italiana e fortissimi toni di contrapposizioni personali. Bossi dice, è nato a Milano il professor Grilli, su Sole 24 ore trovate invece Maroni che dice nessun problema su Saccomanni, ecco, tanto per dire divisione ulteriore anche all'interno della Lega. Ci ha raggiunto Salvatore Bragantini, economista, ex commissario Consob, editorialista del Corriere della Sera. Chiedo a Bragantini come la pensa di questa contrapposizione e secondo lui come ne usciremo. Buongiorno, guarda, io penso che la situazione sia abbastanza paradossale. Abbiamo un governo che è al termine della sua vita, che sta dando una pessima prova di sé anche in questa vicenda. In Banca d'Italia c'è un governatore uscente, c'è un direttore generale che è il suo numero due, c'è qualcuno che ha da dire che la Banca d'Italia è stata gestita male in questi anni? Se sì, allora può essere giusto, diciamo, escludere Fabrizio Saccomanni dal ruolo di governatore. Se no, francamente non capisco. Conosco Vittorio Grilli e lo stimo e credo che in questa vicenda sia, diciamo, stato tirato in mezzo in maniera molto poco diciamo civile quest'ultima uscita sul fatto che è milanese a parte le assonanze con il nome del deputato milanese, a parte queste, oggi sul Corriere Giavazzi giustamente segnala che Angela Merkel ha dato l'ok a Mario Draghi dicendo che non è importante da dove viene. La nostra situazione deprimente si vede nel fatto che per Bossi è importante che Vittorio Grilli, rispettabile e competente, sia milanese, ma il problema non è quello, è che appunto non nominare il direttore generale sarebbe dare un giudizio negativo sulla Banca d'Italia, uno, due, così come è stata gestita fino ad ora, due, il passaggio diretto dalla direzione generale del Tesoro al ruolo di governatore della Banca d'Italia, che ha un dialogo, diciamo, non dico contrapposto, ma comunque autonomo con il governo, non sarebbe l'ideale. E quindi speriamo che questo nodo si possa sciogliere, ma quando Berlusconi, sempre ammesso che i colleghi di Repubblica abbiano buone fonti, non ho dubbi in questo, se lo scrivono, se Berlusconi ieri nell'incontrare Draghi gli ha messo in ballo Bragantini il ragionamento, ma io sarei Saccomanni, ma quello mi fa cadere il governo, che da parte di un Presidente del Consiglio, ammettiamolo, è come una dichiarazione di impotenza totale su chi ha in mano la barra del timone del governo, ma di fronte a questo che cosa bisogna pensare? Che è meglio un terzo uomo piuttosto che un candidato che esprimerebbe la longa manus del Tesoro oppure no secondo lei? Ma premesso che sappiamo tutti come Berlusconi abbia tendenza ad attribuire agli altri la colpa, diciamo così fra virgolette, di decisioni che spetta a lui prendere, tipico il fatto addebitare all'Europa la necessità di fare manovre che noi dobbiamo fare comunque per conto nostro. Anzi, chiedendo che ci impongano la riforma delle pensioni, così. Sì, dicendo, siccome noi non abbiamo la forza, per favore imponetecelo voi, così poi ce la possiamo prendere con voi, no? Perché poi alla fine è questo il ragionamento. A parte questo, credo che la cosa sia molto semplice. Questo balletto deve finire, squalifica l'Italia oltre misura, legittima ogni giudizio o pregiudizio negativo nei nostri confronti, ripeto, la Banca d'Italia deve essere commissariata, fra virgolette? No, è chiarissimo. Noi dicevamo prima con il professor Brancaccio e con il professor Sapelli che tutto questo poi ci impedisce di sapere nel merito in realtà i candidati, il candidato, ma io devo dire la verità, ignoro anche nel merito che cosa pensa Saccomanni di come bisognerebbe poi all'interno del Consiglio Europeo della BCE pronunciarsi su temi delicati che sono quelli fondamentali per il ruolo ulteriormente espansivo che la BCE può avere, visto che gli abbiamo chiesto alla BCE di comprare lei i titoli piuttosto che farlo con uno strumento automatico e con uno strumento di dotazione politica da parte dei governi a favore dei governi eurodeboli, oppure se per esempio Saccomanni la pensi un po' come sappiamo, lo abbiamo preso dai suoi interventi pubblici, invece la pensa Lorenzo Binismaghi, che è stato nel board, benissimo al board della BCE, e che alla fine si è rivelato in questi anni per i suoi interventi pubblici tra i membri del board della BCE più vicini alle posizioni ortodosse e non espansiviste del ruolo della BCE di sostegno improprio, per così dire, perché intervenire sui mercati per sostenere i titoli a fronte di un euro debito che non c'è e sono debiti pubblici nazionali ha anche qualche cosa a che vedere con l'inquinamento del processo di creazione della base monetaria, tant'è vero che è vero deve sterilizzare gli acquisti, ma insomma è un problema delicato. Però sappiamo come la pensa Binismaghi, ma io in realtà dovessi dire ai miei ascoltatori come la pensa Saccomanni, come la pensa Grilli, eccetera eccetera, non saprei cosa rispondere. Non è un po' un difetto fondamentale quello che la politica non ci metta mai in condizione di capire cose così importanti, invece, Bragantini? Ma guardi, in parte è vero, in parte però io penso che ci sia nel ruolo, nell'istituzione, nel ruolo che uno va a svolgere in un'istituzione, una specie di forza autonoma del ruolo che restringe abbastanza le scelte, le diverse scelte possibili, teoricamente possibili. Per cui alla fine, secondo me, quello che finisce per contare di più è la personalità della persona, appunto, e quindi la sua capacità di capire come in certi momenti ci siano delle decisioni storiche da prendere. Per esempio, per quanto riguarda la BCE, io credo che alla fine si troverà costretta, molto suo malgrado, a supplire alle indecisioni della politica europea e quindi a svolgere un ruolo che non è quello suo. I tedeschi penso che strepiteranno, ma preferiranno questo a un a far saltare l'euro, a dei veri eurobond, diciamo. A far saltare l'euro. Anche se anche le nomine, i vertici di Bundesbank e poi la linea portata da Bundesbank in BCE in questi anni, tutte le volte che noi abbiamo avuto governatori fortissima ed esplicita, molto esplicita rispetto alla tradizione Bundesbank, fortissima nomina politica, è stato così con Axel Weber, è così con Jens Widmann, l'attuale guida della Bundesbank, tutte queste guide della Bundesbank, anche se operavano direttamente al Ministero delle Finanze prima, hanno delusi politici, perché poi una volta alla testa della Bundesbank, appunto, hanno rivestito i panni della tradizione della Bundesbank e si sono pronunciati fortissimamente critici verso il ruolo improprio che la politica, per non dire la verità ai propri elettori e per non autorizzare conferimenti di risorse adeguate a strumenti dell'euroarea volti al sostegno agli eurodeboli, hanno finito per chiedere alla BCE di fare cose improprie, con Trichet che ha durissimamente avuto polemiche con i tedeschi, che gli hanno detto no, continui tu a fare gli acquisti sui mercati, fino a quando poi hanno deciso che può essere a farlo l'FSF, però con dotazioni molto minori e con procedure all'interno di voto che non lo rendono certo a oggi la garanzia, la cintura di sicurezza, perché gli spread non saltano e perché l'euro non esploda. Quindi anche in Germania alla fine i candidati politici si sono rivelati molto più fortemente poi intrisi alla prova dei fatti della tradizione dell'istituto, piuttosto che di coloro che dicevano faranno ciò che vuole il cancelliere o il ministro. Ora abbiamo informazioni sulla circolazione stradale. Io saluto e ringrazio Salvatore Bragantini. Eccoci tornati in studio, tre telefonate di ascoltatori e poi concludiamo col professor Brancaccia. Cominciamo con Giuseppe che ci chiama da Napoli. Prego Giuseppe. Pronto? Dica, la sentiamo benissimo. Buongiorno signor dottor Giannini. Volevo fare un appendice a quello di cui stavate ragionando precedentemente, entrando non nel merito, perché non ho le competenze per poter valutare i direttori che si potranno succedere alla Banca Italia, ma nel metodo. Il metodo sempre politichese e il metodo sempre di dare una pessima immagine di noi. Mi riferisco al fatto che sono mesi, direi quasi in primavera, che si parla del Draghi che lascia la Banca d'Italia e si è costretti, come solito, per questioni di banche, questioni di intrighi politici, ad arrivare negli ultimi giorni dando sempre la solita immagine dell'ultimo momento e della improvvisazione e degli intrighi politici che sono sempre alla nostra portata. Diamo un'immagine del mondo in Europa di noi. Non so se sono stato chiaro. Molto chiaro, molto chiaro. Io ricordo a tutti coloro che fossero interessati che su questo, a proposito di immagine, potete giudicare oggi, pagina 3, Corriere della Sera, c'è finalmente pubblicata la lettera inviataci il 5 agosto dalla BCE, quella sulla base della quale siamo stati il governo, dopo aver detto che era tutto a posto, ha dovuto fare la manovra bis, cambiando idea, rimangiandosela e rivelando di non avere idea chiara praticamente su nulla dei pilastri della sua impostazione per settimane e quindi contribuendo al deficit di credibilità. Trovate il testo integrale della lettera firmata da Jean-Claude Trichet e Mario Draghi al governo italiano sul Corriere della Sera. Vale la pena capirlo perché è una lettera molto dettagliata che chiede due cose sulle quali lascio a voi il giudizio se siano poi quelle che davvero sono state comprese nella manovra bis italiana. È vero, c'era il tema se la contrattazione salariale collettiva con le intese aziendali, quindi l'articolo 8 su questo, al di là di quello che ne pensate nel merito, è vero che ci veniva l'articolo 8 della manovra, quello congegnato da Sacconi, che tante polemiche ha suscitato, c'era, perché è una delle esplicite richieste. Viene richiesta una piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali, lascio giudicare a voi se ci sia questo nella manovra del governo. Si chiede esplicitamente assunzione e licenziamento dei dipendenti, una liberalizzazione, e quindi molto di più che le intese aziendali. Questo è il tema dell'articolo 18, molto delicato per così dire. Ecco, e poi c'è una parte che riguarda le tecniche di indebitamento della pubblica amministrazione locale, che solo in parte secondo me è stata recepita dal nostro ordinamento, ma leggetela perché è troppo lungo per parlarne in dettaglio, perché rivela quale sia il grado di fronte alla serietà di una posizione come quella italiana di intervento che la BCE oggi può avere nel dare i dettagli delle manovre che chiede in cambio del suo sostegno. Per questo stiamo parlando, qual è il governatore che rappresenta l'Italia con il Consiglio poi europeo della BCE, di una figura che in questa fase è molto delicata e molto importante. Ugo da Roma, prego, come la pensi? Sì, buongiorno dottor Giannino. No, io volevo solo dire questo, che se fosse venuto fuori un nome, adesso staremmo facendo una trasmissione su come mai è venuto fuori, chi l'ha deciso, che contrapposizione c'è stata, cioè qualunque cosa venga fatta non va mai bene. A me sembra che il fatto, come dice lei, che negli Stati Uniti c'è trasparenza, il fatto che se ne parli sui giornali, che uno ne vuole uno, l'altro ne vuole l'altro, vuol dire che c'è discussione e quindi siamo noi consapevoli di quello che sta avvenendo. Però Salvatore, c'è discussione sui nomi e chi è amico di chi, non c'è discussione su come la pensano, perché noi non la sappiamo. Questo è il punto, cioè io non saprei dire cosa pensa Saccomanni sull'estensione o meno dell'acquisto improprio da parte del titolo della BCE, che comunque ci salva, quindi noi dobbiamo per favore continuare a sperare che avvenga, anche se la maggioranza tecnica della BCE dice no, bisogna che i governi si inventino una roba. Io come la pensano i candidati su questo, che è fondamentale, per esempio, non lo so. Quindi discutiamo, ma discutiamo che uno è poi candidato da Tremonti e che l'altro invece è la tradizione interna. E non è un bel discutere, sa, perché ci riduciamo come sempre a dover essere difensori di regole contro invece impropria invasione della politica, che non è vero neanche questo, perché tutti noi abbiamo detto, conoscendo il professor Grilli, che ci rifiutiamo di credere che il professor Grilli si riduca a questo, quindi voglio essere rispettoso e obiettivo. Francesco da Lecce, come la pensa Francesco? Buongiorno dottor Giannino, grazie per la trasmissione, grazie ai suoi ospiti. Io invece la penso proprio come voi, nel senso che io non conosco l'economia né niente, ma da cittadino italiano che si vuole far rispettare nell'Europa e nel mondo, non considero serio un atteggiamento di chi ci governa che dice Tremonti è stato bravo e poi lo scredita. Adesso abbiamo Draghi che è stato eletto a Presidente della Banca Europea da tutta Europa a pieno titolo, ne siamo stati entusiasti, per prima il nostro Premier ha detto noi siamo è un orgoglio, e adesso non sa decidere perché praticamente ha paura di essere mandato giù. Ma insomma, questo è quello che ci rappresenta, non l'italiano, c'è della gente valida che vuole farsi vedere e riesce a farsi vedere come Draghi e come tanti altri, ma per mezzo di altre persone che fanno sempre, dicono una cosa e poi ne fanno un'altra, o per paura di cosa, noi siamo sempre in mezzo a queste anomalie. Sì, Francesco, io penso che moltissimi la pensino come te, devo dire la verità, credo che non molti abbiano dubbi, al di là del merito di quello che pensano su Draghi, di qual è l'italiano che ci rappresenta meglio nel mondo, al di là del merito, voglio dire, tra Draghi, Presidente del Consiglio e così via. Professor Brancaccio, lascio. In conclusione, che cosa augurarsi e come se ne esce? Meglio un italiano che ovviamente dica alla BCE devi fare di più al di là dell'ortodossia, anche se però sarà un po' improbabile che davvero sia così. Lei come la pensa? Il professor Satelli ruvidamente ma anche molto chiaramente ha detto tra tecnocrazia e democrazia, io scelgo la tecnocrazia, lui ha detto. Ecco, io invece, se dovessi proprio trovarmi spalle al muro, mi permetto di dire che sceglierei la democrazia, ma mi spiego anche perché. Tecnocrazia, cioè governo dei tecnici, è una parola equivoca, nel senso che non è chiaro che cosa poi questo significa. Ecco, se si dicesse oligarchia, forse le cose diventerebbero, cioè governo dei pochi, diventerebbe più interessante. Ma in realtà Sapelli quello ha detto, perché e infatti alla fine ha detto gli ottimati, perché anch'io dico, altrimenti i tecnici quali interessi, non ce lo dico, ma quali interessi rappresentano? Ma vede, noi andiamo sempre d'accordo su questa questione, pur trovandoci da posizioni piuttosto distanti, ma su questa questione terminologica andiamo d'accordo. Si servono comunque in qualche modo degli interessi. Ed allora, io dico che ci si pone un problema di trasparenza politica, insisto. Per esempio, se alla fine dovesse uscire Bini Smaghi, effettivamente noi di Bini Smaghi conosciamo la posizione e io personalmente non la condivido. Immagino, è una posizione rigorista, è una posizione che io temo, se venisse portata alle estreme conseguenze, rischierebbe di far sì che poi la banca centrale al momento decisivo non faccia quel che si serve astiene, per salvare la zona euro. Su Saccomanni e su Grilli, punto interrogativo, io non so e credo che dovremmo sapere. E infatti è su queste conclusioni, su ciò che ci impedisce nel merito di discutere una impostazione così ridicola, perdonatemi, pezzente, priva di dignità, tanto per cambiare, da parte del governo italiano, priva di dignità, mi assumo la responsabilità di giudizi così pesanti, e un paese in cui il premier è il ministro dell'economia, quando è sotto schiaffo dei mercati, se non riescono a parlare non si intendono su niente, è un paese privo di governo, questa è la mia verità, ma questa è la mia verità personale, non siete costretti a condividerla e probabilmente non è detto che sia affatto la verità condivisa. Ringrazio Milano Brancaccio, Giulio Sapelli, Salvatore Bragantini, Linea Giornale Radio, appuntamento a domani. 9 in punto.